lunedì, oggi e la prossima settimana, sempre alle ore 18 e sempre in questa sede, sono legate all'Europa, alla storia, alle prospettive future, no? Sì. E a tutto tondo diciamo che è un tema attuale, perché in realtà se ne parla tanto, forse a volte non si sa bene fino a che punto abbiamo una consapevolezza di essere cittadini europei e magari non abbiamo neanche un'idea precisa di quelle che possono essere anche gli sviluppi. Una responsabilità ce l'ha Marco questa sera, che ci darà una prima inquadratura e proseguirà la prossima settimana. Come nostra abitudine, visto che siamo una biblioteca, organizziamo sempre allestiamo sempre un percorso bibliografico, quindi sul tavolo là in fondo troverete così degli spunti di lettura se volete approfondire alcune tematiche, ma vi invitiamo poi anche a tornare e a venire a trovarci in biblioteca. A proposito di questo, ci sono anche delle locandine che illustrano la nostra attività e vi propongo anche un'iniziativa che facciamo ogni venerdì pomeriggio. Abbiamo iniziato un paio di settimane fa. Ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 facciamo vedere come si scaricano i file audio, come si scaricano gli ebook, come si sfogliano i giornali nell'edicola digitale, che è una piattaforma che hanno tutte le biblioteche. Quindi se avete piacere di venire in biblioteca col vostro iPhone, smartphone o i vostri supporti, oppure semplicemente utilizzando quelli della biblioteca, un addetto del nostro personale vi dedica un pomeriggio e illustra alle persone come fare per essere poi autonomi nella scelta da casa del materiale che più vi può interessare. Ecco, quindi ogni venerdì pomeriggio alle 15.30. Ma tenete il computer semplicemente? Sì, sì, perché c'è un collegamento. E soprattutto siamo appunto in biblioteca in via Mendola 5 per venire, siccome è gratuito, però dobbiamo lavorare con un gruppo piccolo. Se potete chiamare qualche giorno prima e iscrivervi, è tutto gratuito, ma abbiamo bisogno di un numero preciso di persone. Ecco. Marco Pugliese è un insegnante di Bolzano, un grande appassionato di storia, ma non solo, direi è un curioso di tutto lo scibile, è vero, sono i personaggi che piacciono alle biblioteche, ci dà una mano anche nel costruire alcune bibliografie e nell'ambito degli acquisti specializzati. E da tanto tempo, direi da qualche anno, no? 3-4, sì. Ecco, ci aiuta periodicamente con l'organizzazione di alcuni dibattiti che portano poi anche alla lettura di libri che noi mettiamo a disposizione. Lo ringrazio tantissimo per il suo aiuto, la collaborazione, e ringrazio voi di essere venuti qua con noi questa sera. Grazie. Grazie, io sono felice di poter partecipare a questa iniziativa, perché secondo me da un punto di vista la cultura in generale, oltre che la storia, è giusto che sia divulgata in un certo modo e non che rimanga solamente sui libri. Buono. Mi sentite? Mi sentite, sì. E quindi sono contento di poter partecipare, perché appunto credo nella divulgazione della cultura, quindi di una cultura che passi non solamente dai canali istituzionali, che possono essere la scuola o agenzie di formazione eccetera eccetera, ma che passi anche da altre iniziative. Il tema di questa sera è un tema molto interessante secondo me, che parte, ho proposto io nella parte storica appunto, perché ho parlato proprio di Genesi e ci ho messo dentro un personaggio mitologico, cioè in realtà due personaggi mitologici, Prometeo ed Europa stessa. Prometeo perché non ha a che fare in senso stretto con l'idea che abbiamo noi di Europa, però è un personaggio che ha praticamente donato se stesso per dare il fuoco agli uomini, ha sfidato gli dèi, quindi ha sfidato i propri limiti. Europa invece era una poveretta, secondo me, nel senso che si è ritrovata a dover per forza avere un rapporto violento con Zeus. Da lì sono nati tre figli, anche questi non proprio baciati alla fortuna, perché uno era Minosse, che ha avuto il Minotauro come, come figliuolo, e poi ha fatto costruire la Dedalo, tutto il discorso del... Però diciamo che Europa è nata, quindi ha avuto un'esistenza travagliata. Mi piaceva il parallelo perché anche l'Europa come continente, e qui si può aprire un dibattito perché è un continente che non ha un confine preciso, e c'è chi lo pone ai monti Urali, chi invece lo pone, chi dice, non so, ad esempio adesso c'è il dibattito, la Turchia è un'Europa, quindi ci sono vari confini. E questo tipo di discorso non è in realtà così attuale, cioè è un discorso che parte da lontanissimo, tralasciando la rivoluzione francese, dove proprio nacque il termine, un neologismo era per l'epoca, adesso è una parola insomma di uso comune, cioè la civilizzazione. Quindi la civiltà nacque con l'idea della Repubblica Francese, e nacque in che modo però? Nacque in un modo che noi definiamo disprezzativo, perché tutto ciò che non era europeo non era considerato civilizzato. Addirittura nello stesso periodo gli stessi Stati Uniti, che erano ancora nella fase embrionale, quindi non avevano ancora quella potenza che hanno adesso economica e militare, erano considerati, insomma, nonostante fossero residuati coloniali, non erano considerati a livello della potenza europea. Quindi da questa parola nasce tutto il dibattito di cosa effettivamente si possa tirare dentro nello scatolone Europa, cioè tutto quello che è o non è Europa, che in realtà non ha una risposta ben precisa. E sono secoli che si va avanti in questo dibattito. Nella scorsa estate abbiamo avuto un dibattito acceso per il discorso Germania-Grecia, perché possiamo noi europei buttare fuori il paese che in realtà ha dato la genesi al nostro continente in quanto idea vera e propria di progetto comune? E in realtà no, poi in realtà non l'abbiamo buttato fuori, l'abbiamo tenuto dentro, tenendolo, a qualcuno ha detto, al guinzaglio. E in realtà questo dibattito tra paesi del sud e nord Europa, est e ovest Europa, perché adesso ci stiamo dimenticando, ma fino a 30 anni fa il problema era est-ovest, non era nord-sud dell'Europa, quindi i paesi dell'est con un determinato tipo di ideologia eccetera, i paesi dell'occidente. E qua mi richiamo anche alla parola occidente, che io ho trovato questo libro, ve lo faccio proprio vedere, di Ferguson, Occidente proprio, quindi Ascesa e crisi di una civiltà. Secondo me questo libro, che è fatto molto bene, riprende completamente che cosa è stato e che cos'è il valore occidentale proprio nel senso di civiltà occidentale. Quindi già dall'indice si capisce, questo autore non ha fatto il solito discorso militare e di potenza, che è un discorso abbastanza banale, ne ha fatto un discorso di proprietà. Cioè, perché gli europei, cioè in fin dei conti, perché gli europei sono arrivati ad avere il 87% del globo terrestre sotto il loro dominio? Ha la potenza militare e anche il modello però che hanno esportato più o meno violentemente, perché chiaramente lo hanno esportato in maniera violenta nella maggior parte dei casi, però ci sono dei casi particolari e uno di questi casi particolari è il Giappone. Allora, il Giappone, che penso che tutti abbiano un'idea di Giappone come di società chiusa in se stessa, molto conservatrice, in realtà alla fine dell'Ottocento la civiltà giapponese, chiamiamo proprio civiltà perché arrivava da millenni di chiusura, e decise di tagliare il cordone ombelicale con la sua tradizione e abbracciare i valori occidentali. Cioè i giapponesi, senza tanti peli sulla lingua, cercarono di esportare da loro il nostro modello, quindi basta samurai, cioè quel film famoso, no, L'ultimo samurai, quello è un film emblematico perché effettivamente andò in larga parte così, ci fu una rivolta culturale, una rivoluzione culturale, quindi occidentale, però fatta da giapponesi, cioè in quel caso lì fu un'autocolonizzazione, nel senso che il re del trono, che si considerava un dio, quindi che i giapponesi consideravano un dio, che era l'imperatore, andava a vestirsi a Londra e si faceva fotografare con l'allora principe d'Inghilterra, vestito all'occidentale, in Occidente. Quando tornava in Oriente, per per motivi politici e anche strategici, ovviamente si faceva ritrarre in abiti più orientali. Però i giapponesi furono il primo stato che organizzò la propria industria sul modello occidentale, quindi mitragliatrici, parlo di industria pesante dell'epoca, mitragliatrici, navi da guerra, tutte sul modello occidentale, istruttori militari americani, inglesi e francesi, ad esempio. Quindi fu un modello occidentale autoesportato. Questo perché? Perché a quel tempo proprio il modello occidentale non era visto in negativo dai colonizzati, era visto in negativo il discorso militare, ma in positivo tutto il resto, nel senso, per essere a un certo livello devo essere come gli inglesi, i francesi, belgi, tedeschi, eccetera, eccetera. E su questo piano il nostro paese arriverà dopo, per una questione di unità nazionale, nel senso che una volta unita l'Italia anche si andrà a buttare sul discorso coloniale, perché comunque era un discorso di prestigio e perché comunque l'Italia era comunque uno stato occidentale, quindi aveva laurea, no? E quindi anche se era appena formato valeva di più sulla cartina di tanti altri stati che magari avevano più storia politica, perché poi la storia culturale è un'altra, anche secondo me lì va fatto sempre un distinguo, nel senso che da un punto di vista politico la Spagna si è creata nel 1400, però è stata la fusione di due regni, e anche lì vedremo che l'Europa si è creata con la fusione di regni. In Italia invece abbiamo come al solito pensato a litigare. Abbiamo avuto il Rinascimento grazie ai litigi, Maramaldo ne sa qualcosa, poi è finito anche lui male, però lui è stato è il campione dell'anti-italianità, nel senso che lui è uno che è stato preso dall'esercito imperiale che era disceso in Italia e si è scontrato con Ferruccio, che è presente nell'inno nazionale, e c'è la famosa frase: Maramaldo, tu uccidi un uomo già morto, perché appunto Ferruccio, che era un capitano valoroso, è stato trafitto ormai morente da Maramaldo, e lì c'è proprio tutta la figura della nostra politica in quegli anni, è totalmente piatta. Quindi si lamentavano i grandi intellettuali dell'epoca, si lamentavano gli intellettuali del Settecento, gli intellettuali dell'Ottocento, grazie a correnti massoniche adesso sono venute fuori, grazie all'appoggio degli inglesi e in parte di Napoleone III, riuscirono poi a creare l'unità. Un'unità che fu caldeggiata anche dagli stati europei, perché appunto vedevano nell'Italia un altro stato da mettere nella casellina degli stati che contassero qualcosa al mondo. E in tutto questo si era persa per strada la Grecia, chiaramente, perché la Grecia ha avuto il suo periodo di maggiore espansione nell'età antica, addirittura si parla di medioevo ellenico già nell'età antica, quindi i greci decadono ancora prima che arrivassero i romani, in realtà, nel senso che noi abbiamo un'idea molto classica della Grecia, cioè siamo convinti quasi che sia in simbiosi col mondo romano, è il mondo romano che conquistando la Grecia ci ha portato questa idea di Grecia, quindi abbiamo un sovrapporsi. Questa cosa però secondo me non è del tutto negativa, perché la cultura che si è andata a creare con conquiste, guerre, eccetera, eccetera, ha dato origine a quell'humus che oggi noi possiamo chiamare pensiero europeo, che è un pensiero europeo che è molto differente dal pensiero europeo del 1914, vigilia della prima guerra mondiale. Però il pensiero europeo di quegli anni era: noi siamo le popolazioni civili, tutto il resto del mondo c'è e fa quello che diciamo noi. Adesso invece abbiamo questo senso di colpa storico e stiamo cercando di tornare indietro dicendo: no, beh, ci sono anche gli altri, forse gli altri valgono più di noi, ma in realtà valevano già più di noi, perché ad esempio nel 1200 la Cina era avanti anni luce all'Europa di quel tempo, quindi era proprio su un altro pianeta. I cinesi avevano delle infrastrutture enormi, avevano un sistema commerciale avanzato, avevano un'economia quasi moderna rispetto agli stati europei, che erano veramente, brancolavano nel buio, tranne appunto la penisola italiana, però la penisola italiana non a livello militare, a livello culturale, perché anche politico, guerre fratricide tra stati non hanno portato poi all'unità. E secondo me quindi c'è una genesi, cioè il parallelo con l'Italia è abbastanza significativo, perché a mio parere l'Italia ha avuto, non lo dico io ovviamente, lo dicono gli storici, è nata prima da un punto di vista culturale e poi da un punto di vista politico. Cioè l'italiano si chiamava italiano anche quando l'Italia era spezzettata, quindi quando era tagliata, cioè dicevi di essere italiano anche se eri del regno delle due Sicilie. Adesso c'è qualcuno che ha tirato fuori anche lì insomma discorsi particolari di revisione, cioè che il regno delle due Sicilie fosse avanzato, è vero e non è vero, anche quelle sono proprio delle leggende, su alcune cose i dati fanno abbastanza ridere, perché non è vero che era così avanzato, e purtroppo gli analfabeti erano parecchi, cioè le statistiche purtroppo ci sono e sono chiarissime. E quindi da questo progetto culturale europeo, però involontario, perché comunque al tempo per esempio dell'Unità d'Italia, quindi nel 1860, avevamo un impero enorme al centro dell'Europa, quindi l'impero austro-ungarico, avevamo la Germania che era in formazione, avevamo la Francia che era uscita dal discorso napoleonico, che quindi era in totale crisi in realtà di valori, perché aveva dato il là alla democrazia moderna, ma poi si era rientanata di nuovo nei vari Napoleone III, eccetera eccetera. E poi la Spagna, che comunque aveva avuto un decadimento totale. La Spagna è uno stato che è andato proprio in continuo declino da un punto di vista, e anche il Portogallo sono degli stati che erano diventati ricchissimi durante le prime colonizzazioni, ma hanno fatto una colonizzazione totalmente errata. Cioè gli spagnoli erano come delle locuste, arrivavano, distruggevano, ripartivano, arrivavano, distruggevano, ripartivano. Gli inglesi invece andranno a fare una colonizzazione più intelligente, molto copiata dall'impero romano. Arrivo, metto un governatore, mi metto d'accordo, se qualcuno fa il furbo gli taglio la testa, ma se nessuno fa il furbo puoi rimanere col tuo re, con la tua religione. Nessun inglese avrebbe mai, nessun governatore inglese ha mai sparato un colpo di fucile, perché la tal popolazione non era anglicana. Gli spagnoli invece l'avevano messa anche sul punto di vista religioso in maniera furba, perché chiaramente è uno stato fortemente cattolico, per far partire certe persone ci voleva il discorso anche religioso. Gli inglesi per esempio quello step lo avevano completamente saltato. I francesi avevano un altro tipo di colonialismo ancora, era un colonialismo di idee. Non per niente il loro colonialismo tra virgolette in Italia ha dato là anche la nostra bandiera nazionale, nel senso siamo tutti uguali, le famose tre parole della rivoluzione francese: comandiamo noi, però vi diamo la Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, addirittura hanno incoronato il Re d'Italia, eccetera eccetera. In Egitto Napoleone si è presentato come facevano gli imperatori romani, si è presentato con tutto lo stuolo di intellettuali e ha detto: no, ma io non sono qui a conquistare niente, voglio solo vedere come sono fatti i monumenti. Sì, magari diremmo oggi una fesseria, però in realtà lui si era presentato così. Ricordava Nerone quando andò in Grecia e lanciò la spada dicendo che lui era un attore, non un imperatore, dicendo: io vi ho liberati, cioè mi pagate le tasse lo stesso, ci sono le legioni pronte che se qualcuno fa il furbo facciamo proprio tabula rasa, però siete liberi intellettualmente. Cioè praticamente lui ha ammesso di essere stato conquistato intellettualmente dal popolo greco, anche perché lui parlava in greco, lo aveva studiato. Era un imperatore che di economia ne sapeva parecchia. Noi purtroppo abbiamo una visione distorta di Nerone per colpa di Hollywood e per colpa di storici come Svetonio, che veniva chiamato la pettegola del quartierino, quindi non era uno storico, è attendibile per noi perché è stato tradotto dagli storici cristiani, quindi Nerone rappresentava il diavolo. E allora lì tutta la storiografia è andata da quella parte. In realtà Nerone non aveva fatto tutto male, anzi era amatissimo dal popolo, molto più di Tiberio, che era ad esempio uno degli imperatori che magari a scuola dice: beh, Tiberio viene dopo Augusto, tutto sommato era il figlio. Però in realtà quello non voleva proprio fare l'imperatore, era un militare e non avrebbe mai voluto fare l'imperatore, è finito a fare l'imperatore, era burbero, però non aveva quelli quella creatività di Nerone. Nerone si vestiva di azzurro, l'azzurro era il colore del popolo, quindi allo stadio andavi vestito d'azzurro e tifavi per il gladiatore del popolo. Adesso noi nella nostra società tendiamo a dare dei valori, non so, io, a me delle volte viene da sorridere quando leggo dei testi di storia, il tal faraone, no, nell'antico Egitto non c'erano gli schiavi, è bene ricordarlo, quelle sono tutte fandonie inventate da un greco, però non è neanche vero che c'erano i sindacati, perché qualcuno si è messo a dire che qualche faraone avesse dei sindacati. Adesso noi non dobbiamo neanche esagerare da quel punto di vista, cioè dobbiamo cercare sempre, in storia si tende, no, a estremizzare. Noi abbiamo gli occhi, anche Spartacus, hanno fatto il telefilm, però sembra quasi che quello fosse un rivoluzionario, un proto rivoluzionario. In realtà era uno schiavo che si era liberato, poveretto, perché aveva vissuto malissimo la sua incarcerazione, ma aveva messo a ferro e fuoco tutto il sud Italia, cioè le città quando sentivano Spartacus si chiudevano, non è che invece nel telefilm viene visto come il liberatore, non era, cioè, donne violentate, bambini, gente impiccata, quindi era un liberatore per modo di dire, nel senso che ha messo in scacco poco l'esercito romano, perché ha fatto una brutta fine anche in breve tempo, ha avuto la fortuna di beccare il periodo politico giusto, nel senso che c'erano degli scontri, poi Pompeo Magno è diventato Magno anche perché aveva la via Appia, l'ha fatta diventare la via Crucis, perché ha praticamente impalato tutti gli schiavi che erano andati con gli ha dato fuoco, quindi crocifissi tutti e via. E per dimostrare che insomma i romani non scherzavano con quelli che si mettevano contro di loro, quindi a quell'epoca lì, quindi avevamo questa idea tra virgolette di civiltà, dicevamo che gli altri erano barbari tutti, addirittura lo dicevano i greci, colui che non parlava il greco balbettava, quindi barbaros eccetera. I romani hanno assimilato tutto senza far tanta fatica. E poi siamo rimasti con questo concetto fino alla caduta dell'Impero Romano, dove sono arrivati altri barbari, si sono mischiati con la popolazione europea e hanno creato un altro passaggio ancora. Secondo me è un passaggio abbastanza importante, perché secondo me la vera genesi dell'Europa moderna è stata proprio nell'unione tra gli stati, cioè tra gli stati romani e gli stati che verranno poi a crearsi, quindi la Gallia, che era una provincia romana, divenne uno stato indipendente, i Galli, romanizzati ovviamente perché di Gallo avevano pochissimo, si fusero con i nuovi arrivati, cioè i Franchi, e diedero origine poi a tutto il discorso che conosciamo della Francia. Gli inglesi, stessa storia, non per nulla nell'ultimo periodo è saltato fuori che Artù si chiamasse Arterius, chi studia storia lo sapeva dai tempi di Arterius, però adesso va di moda, cioè Re Artù addirittura è stato messo da parte per dare un'origine comune. Pensate che per gli inglesi una roba del genere non è proprio, cioè un film che ti fa vedere o comunque che ti fa capire che la loro origine è latina, un popolo che si è sempre stato orgoglioso di essere anglosassone, però che aveva come i gallesi sono orgogliosi dell'origine romana perché hanno la bandiera col dragone, che era il famoso drago della legione che aveva conquistato la zona, e però gli inglesi, proprio gli autoctoni, si erano sempre ribellati ai romani, quindi in realtà è stata sballata. È vero che la leggenda di Re Artù è una fuffa, diremmo oggi, perché addirittura l'abbigliamento è sbagliato. Quando è stato scritto, i cavalieri erano già conclusi e finiti, non c'erano più donzelle da salvare, quindi insomma aveva chiuso proprio baracche e burattini, come si dice. E quindi abbiamo questa trasposizione che però è moderna, nel senso che queste nuove, qualcuno le chiama nuove teorie, in realtà sono vecchie, le hanno tirate fuori dai cassetti. E queste nuove teorie sono venute fuori negli ultimi anni perché? Perché qualcuno ha detto che effettivamente la nostra origine è comune, quindi che sia stato l'Impero Romano insieme ai Greci in fusione, Però verrebbe anche da dire, allora ci tiriamo dentro anche i persiani e i parti, perché quelli hanno fatto parte del nostro vissuto, delle usanze dei parti, li abbiamo portati a Roma e li abbiamo fatti diventare italiane, per esempio, ce ne sono tantissime. O gli stessi arabi allora, perché gli arabi avevano conquistato mezza Europa, stati sconfitti da Carlo Martello a Poitiers, però la Sicilia era in mano araba, infatti ancora adesso in Sicilia si mangiano, gustano quelle battezze che sono miste, couscous si fa anche in Sicilia. Quindi nella nostra lingua ci sono un sacco di parole arabe, abizzeffe, tutte le parole che hanno a che fare con la marineria sono state sostituite, la stessa matematica che è praticamente araba, Fibonacci era stato in Libia a fare il mercante, è unito le due, quindi nella nostra cultura c'è anche quello. Ed è proprio quello, secondo me, è questo incastro che ha fatto dell'Europa un qualcosa, gli ha dato il quid in più. Nel senso che se noi facciamo un esempio con un altro super stato, macro stato, che è la Cina è stata avanti per un sacco di secoli, però è rimasta lì. Ha vinto contro i mongoli, ha vinto contro gli Unni, perché ricordiamoci che gli Unni e Attila avevano provato ad andare in Cina, ma le hanno prese, allora si sono rivolti verso l'Europa. È proprio un discorso di humus culturale, secondo me, nel senso proprio una mentalità diversa, cioè tu vieni anche conquistato, però da un punto di vista intellettuale non vieni conquistato, anzi ti vai a fondere con le cose migliori del conquistatore. Quindi ai germani gli abbiamo preso i pantaloni, già le legioni romane avevano i pantaloni perché erano più comodi per combattere nel nord Europa rispetto alla gonnella dei primi legionari che erano stati mandati, perché ti raffreddavi abbastanza, quindi abituati. Quindi da queste piccole cose c'è stata un'unione. Qualcuno poi dirà, poi nella seconda conferenza parlerò proprio dell'epoca moderna, adesso io mi fermerò all'epoca fino alla seconda guerra mondiale, perché poi gli europei si sono ammazzati per secoli, quindi questa grande unione non c'è mai stata. Però c'era un'unione, un tacito accordo di conquista, comunque anche spirituale delle volte, perché ci sono state le conversioni forzate in Sud America, insomma sono tutti cattolici, ma non perché li hanno eliminato dicendo, ma vi rendete conto che state a dare, andate addirittura. Io avevo letto un passo di, era uno storico spagnolo che diceva che cosa facevano i conquistadores, si portavano sempre dietro 2-3 preti, prendevano le spoglie, le raffigurazioni del serpente piumato, che era la divinità principale di quelle zone lì, e la mettevano vicino al crocifisso e gli dicevano, adesso siamo seri, ma vi sembra che quella roba vi sembra possibile che quella roba lì sia una divinità? Cioè partivano proprio dal poco, anche da una semplice statua, da una semplice raffigurazione, cioè proprio l'annientamento totale. E vedete, una roba, gli spagnoli sono stati odiati, chi li ha odiati è morto, però cioè sono stati praticamente sterminati tutte le popolazioni che hanno avuto a che fare con la Spagna. Hanno avuto fortuna quelli del nord, perché con francesi e inglesi è andata meglio, anche se anche gli inglesi, poi il Far West ha concluso l'epopea, però sono popolazioni che sono state già più assimilate. È vero anche che gli abbiamo portato un sacco di malattie in Centro America e in Sud America, però gli Inca e proprio quegli spagnoli non volevano avere nulla a che fare, due culture completamente diverse, e la nostra cultura arrivata lì per spazzare via un'altra cultura, non c'era proprio possibilità. Hanno provato a farli lavorare come schiavi, poi sono morti perché erano anche persone appunto che si ammalavano velocemente avendo a che fare con noi, e quindi hanno avuto la grande idea di andare a prendere i neri dall'Africa. Quella è stata l'intuizione, cioè andiamo a pigliare chi è che è peggio di quelli? Quelli lì. Allora andiamo lì, tanto quelli non valgono niente, andiamo nei villaggi. Attenzione però, quando si fa questo discorso, che non erano gli europei proprio peggio, la palma d'oro ce l'hanno avuta gli arabi. Perché gli arabi cosa facevano? Rastrellavano, schiavizzavano e vendevano, già impacchettati. Quindi la razzia era di uno e la compravendita c'era. Poi se li scambiavano, infatti sono finiti in Indocina. Quindi c'è stata questa, perché? Perché il mondo arabo mondo arabo era, da un punto di vista culturale, a quel tempo era molto simile, anzi era superiore al nostro. Cioè, loro avevano... Ma mi pare che gli arabi non schiavizzavano, cioè schiavizzavano molto anche gli europei. Certo. Proprio avevano Sì, lì però era una cosa un po' diversa, perché avevano, siccome Mehmet II, che era il sultano che conquistò Costantinopoli, quindi è quello che poi è arrivato quasi fino a Vienna, suo figlio, eccetera, lui sul comodino aveva il debello gallico, tutte le opere latine e greche. Quindi lui cosa faceva? Aveva capito qual era l'andazzo, nel senso, ai veneziani non gli aveva mai torto un capello, addirittura potevano professare senza pagare la religione cattolica in terra, perché adesso si parla dell'Isis, ma l'Isis fa quello che faceva il sultanato, cioè dice: tu sei cattolico oppure sei quel che vuoi, io non ti tocco, paghi una tassa, fine, non ti ammazza nessuno, non puoi far carriera politica. I veneziani in quel caso lì invece potevano fare quello che volevano, collaboravano col sultano. Poi, siccome si erano trovati parecchio bene, alcuni cambiarono nome. Infatti ci sono un sacco di italiani che hanno lavorato nel sultanato Sublime Porta, e perché appunto dal punto di vista economico con Venezia i rapporti erano molto stretti. Si dice anche che quando c'è stata la famosa battaglia di Lepanto, le veloci galee veneziane avessero tagliato la corda per lasciare Doria a gestire tutto, che era il genovese, che si è preso tutta la colpa, poveretto, perché quella battaglia fu persa dagli arabi in modo strano, nel senso che come potenza, è vero, gli europei avevano veramente avuto la forza di tirar fuori quello che non avevano tirato fuori, però da un punto di vista strategico militare Doria aveva visto giusto. E sono stati i veneziani che gli hanno lasciato scoperto completamente una parte, perché sapevano che i turchi praticamente non avrebbero mai attaccato da quella, e da lì si è capito che sotto c'era qualcos'altro. Infatti Venezia mantenne praticamente tutti i possedimenti che aveva in Medio Oriente, assolutamente li mantenne tutti quanti. Quindi ci fu questo, vedete, anche qui se queste cose si spiegassero, secondo me anche questi scontri che abbiamo negli ultimi anni di civiltà sarebbero smussati. Ovviamente io parlo, spiegarli da una parte e dall'altra, cioè bisogna anche noi spiegarli, ma anche dall'altra, perché sennò diventa senso unico, nel senso, se abbiamo sbagliato solo noi, non andiamo da nessuna parte. Anche perché nell'ultimo periodo questo ragionamento, e questo sarà il tema della prossima conferenza, ci sta, tra virgolette, fregando, perché noi con la scusa ma abbiamo fatto questo e ci portiamo questa spada di Damocle continua, abbiamo paura anche a intervenire o a dire la nostra quando sarebbe opportuno dirla, perché è clamoroso che il nostro alto rappresentante, che in questo caso è italiano, che è la Mogherini, e non si è interpellata minimamente su fatti che hanno a che fare con l'Unione Europea. Cioè va a parlare Obama, in Ucraina è successo un disastro e lì noi come Italia proprio non ci hanno preso in considerazione, come Unione Europea neanche più di tanto, perché gli americani hanno fatto quello che hanno voluto nonostante ci fossero degli accordi ben precisi, e così in Libia, e così in Siria, e così in Iraq, e così in Afghanistan. Sono politiche, cioè noi europei in questo caso dovremmo prendere coscienza che abbiamo un apparato politico, a me dispiace dirlo, militare, che sommato vale quello americano o di poco più basso. Quindi in certi tavoli quella cosa lì peserebbe. Noi abbiamo deciso di fare i Gandhi, va bene, però dobbiamo ricordarci che India, Cina, Brasile, io non ho mai creduto agli stati sudamericani, scusate, perché quando leggevo anche qua qualcuno che diceva: ma se facessimo come il Venezuela, no, avremmo le pezze, e mi fermo perché sono a una conferenza, non funziona quel sistema lì, è stato fatto, cioè Chavez, Lula e compagnia sono dei personaggi che sicuramente sono meglio di un dittatore, però comunque con i mondiali di calcio e adesso con le Olimpiadi abbiamo visto qual è il vero volto del Brasile, cioè le cose funzionano a metà, fanno finta che funzionano del tutto, eliminano i poveri non vengono aiutati, i ragazzi non vanno a scuola, i bianchi studiano, quelli meno bianchi non studiano. Cioè abbiamo questa contrapposizione, che ne dica Coelho, che a questo punto è un autore di regime, perché penso che uno scrittore, un intellettuale dovrebbe anche vedere a casa propria, oltre che fare una serie di lezioni di morali anche a noi europei. Ne fa parecchie, ho sentito varie sue conferenze, ne fa parecchie a noi europei, ne fa ai portoghesi, ha ragione per quello che fecero, però non possiamo continuare a lavorare su un discorso, secondo me, di passato, perché un conto è discuterne da un punto di vista intellettuale, cioè questa è l'Europa, noi siamo al centro, vediamo cosa fare da un punto di vista politico e internazionale, e secondo me è un discorso. Se noi andiamo in ogni dove a dire gli europei sono stati, hanno massacrato, è vero, hanno distrutto, è verissimo, però nel contesto moderno questa cosa non serve né alle situazioni che ci sono adesso, e tantomeno serve a dare una riabilitazione, perché tanto la riabilitazione non ce l'avremo mai, perché comunque noi abbiamo fatto, come europei parlo, tutta una serie di schifezze che ci hanno portato a non essere considerati così democratici come ci piace apparire. E poi abbiamo dei problemi a casa nostra, perché abbiamo l'Ungheria, che in questo momento non si capisce bene, un paese come la Bielorussia che è dentro l'Europa e addirittura con le adozioni a distanza. E poi abbiamo, come paesi occidentali, e non abbiamo mai la forza anche a livello unilaterale di dire alcune cose, nel senso, ma da dove verranno questi flussi migratori? Nessuno dice che c'è il Niger, che è uno stato pieno di uranio, i cinesi stanno facendo un po' di ponti per prendersi un po' di cose, i francesi hanno da 40 anni il contratto che si, avete presente quando vi iscrivete alla Voda, non posso fare nomi, ma vi iscrivete alle compagnie telefoniche e c'è il tacito rinnovo? Ecco, loro lo fanno con l'uranio, però, quindi tutte le centrali francesi funzionano con quella roba lì. Io che nasco in Niger, ho l'ISIS a 40 km sotto e posso fare il minatore in una miniera d'uranio gestita da francesi, non è il massimo. Il mio capo di Stato è un venduto, forse piglio e vado dove mi dicono di andare, perché anche lì ci serve da fare un discorso proprio geopolitico, non è un discorso da fare sulla costa libica, sulla Cirenaica, il governo di Tripoli o di Tobruk, lì è un discorso da fare geopolitico che non fa praticamente nessuno. C'è qualche politico che fa qualche discorso geopolitico, scusate il giro di parole, ma poi non sa neanche lui da dove va a parare, e questo discorso di continuo mettere pezze, noi abbiamo messo una pezza in Iraq, ma è una pezza che è stata un autogol clamoroso, perché siamo andati in Iraq, armi di distruzione di massa, no, avevamo una persona, Saddam Hussein, che era un battista, cioè il partito Baath è laico, quindi è il migliore interlocutore per un occidentale. Non hai tutto il discorso della religione, non c'è la teocrazia, cioè lui non ha mai detto, non ha mai professato. Abbiamo disintegrato gli interlocutori che avevamo messo noi, perché Iran-Iraq è stata la CIA, ormai è storicamente, nel 76 avevano iniziato a fare dei discorsi che sono sfociati poi nella guerra Iran-Iraq. Abbiamo armato l'Iraq, perché tra l'Iran e l'Iraq preferiamo l'Iraq, sono laici. Poi però Saddam Hussein cosa ha fatto? Ha detto, vabbè, ma perché il petrolio me lo devo gestire in questo modo? Aspetta un attimo che vado in Kuwait. E il Kuwait è diventato di colpo uno stato da difendere, democraticissimo. Allora, il Kuwait è peggio dell'Arabia Saudita. Cioè, in Iraq, se voi prendete, io avevo una collega cara di scuola che è andata in pensione l'anno scorso, mi ha fatto vedere delle foto dell'Afghanistan, dell'Iraq, della Siria, tutte riferite agli anni 60 e 70. Lei era stata in questi paesi. Allora, un paese occidentale, non c'era, i talebani li abbiamo armati noi perché dovevano andare contro l'armata rossa, quindi abbiamo creato con la scusa di no beh ma voi potete fare quello che volete a casa vostra, abbiamo però armato la stessa IS, Stato Islamico, chiamatela come volete, sono i famosi, vi ricordate? Perché è clamoroso, i primi titoli di giornale del 2011, l'Italia in prima linea a mandare armi ai ribelli. I ribelli dovevamo armarli, dovevamo mandargli i sistemi di puntamento, roba anche bella. Poi questi ribelli sono quelli dell'IS, eh? Tanta gente non ha capito, ma è la stessa cosa, cioè sono loro, cioè noi abbiamo armato i ribelli che poi si sono ribellati a coloro che li hanno, cioè c'è stato questo giro. E non è il complotto, non è il complotto del, non è il complotto che ho letto in internet statunitense, no, ma perché loro hanno le basette come i Marines, cioè adesso di sciocchezze i servizi segreti ne hanno fatte, perfino Lawrence d'Arabia che è stato quello più, no? Però adesso le basette come i Marines non è quello il problema, il problema è che proprio è l'Occidente che ha armato e non ha più gestito. È come quando, non so, hai in laboratorio un virus e non hai, il vaccino e però lo provi. Noi abbiamo fatto la stessa cosa. Non si capisce però che cosa ci sia ancora dietro a questo, perché a livello geopolitico ci stanno dicendo che era tutto a posto in Egitto. Adesso vi faccio un esempio: voi andate in una qualsiasi cancelleria europea e dite come va con l'Egitto? Beh, tutto a posto. Loro hanno i carri armati, gli abbiamo fornito, la Francia ha firmato 3 settimane fa un contratto, dopo avevo una statistica, e le prime 10 nazioni che vendono armi, l'Italia è decima, con Finmeccanica, sono tutti stati, ci sono praticamente 6 fabbriche, cioè multinazionali, americane, inglesi e francesi, ma non ce ne sono altri che fanno armi. Però più che quella, a me interessa chi le compra, e i primi 10 stati sono tutti di quell'area lì: Arabia Saudita, Kuwait, e Emirati Arabi Uniti, Yemen. E Yemen c'è una guerra, ma non ne parla nessuno, fa lo stesso, in realtà anche lì islamisti, non islamisti, non si capisce. Oggi in Somalia c'è stato un attentato e anche lì non si sa, eravamo andati nel 92, ci hanno preso a palate, perché ci avevano preso a palate, ci abbiamo rimesso anche dei militari di leva, tra le altre cose, e però l'ONU ha detto che andava tutto bene, adesso invece siamo di nuovo alla situazione di partenza. Quindi secondo me la nostra identità europea è lì che sta fallendo. Non sta fallendo il discorso di un'Europa che qualcuno dice è troppo economica, è poco politica, è vero. La nostra identità europea sta venendo a cadere, non per colpa, come ho sentito dire, ma c'è un discorso di aumento di Islam in Europa e quindi noi andremo a perdere. In parte qualcosa probabilmente cambierà in alcuni stati che hanno un range molto alto, perché chiaramente se qualche politico di idee di un certo tipo proporrà in futuro delle leggi, bisognerà vedere se potranno venire attuate, perché ci sono delle costituzioni come quella italiana che non prevedono che ci siano differenziazioni tra individui per il sesso, eccetera. Quindi in teoria dovremmo essere una botte di ferro. Poi però c'è Erdogan che con 5 seggi in più cambia la costituzione turca e lì verrà fuori un disastro. La Turchia per anni la tiriamo dentro in Europa, non la tiriamo dentro, sarebbe stato da tirarla dentro gli anni che furono, quando era debole, e quindi avrebbe dovuto entrare e gli avremmo dovuto dare una mano a livello culturale, dargli noi piuttosto un appoggio militare. Cioè una volta che tu hai dentro la NATO, hai dentro l'Unione Europea, non ti tocca più nessuno in quell'area lì, che parliamoci chiaro, c'è Sharm. Ci sono 7 navi militari, non lo dice nessuno, che gironzolano nel golfo, ce ne sono 2 italiane, 2 inglesi e 2 francesi, guarda caso. I turisti sono italiani, francesi e inglesi. La Germania ha una convenzione, perché anche la Germania non fa mai le guerre, però poi firma trattati continui, mi proteggi tu lì, mi proteggi tu qui, tu proteggi i miei cargo, tu fai così, per esempio i Marò, il cargo che stavano proteggendo, 60% di quella merce andava tutta in Nord Europa. Però c'erano i nostri militari, quindi sono tutti accordi, no? che andiamo a stringere. In quell'area lì adesso è successo questo fatto dell'aereo, è esploso in volo, gli hanno sparato, che non abbiano le armi per farlo, nessuno può dire se è vero o non è vero, perché comunque le armi ci sono nell'area per fare quelle cose lì, lo stesso Egitto ce le ha. L'Egitto non ha nessun tipo di Cioè, non, il Sinai non è dell'Egitto, è solo sulla cartina geografica che è dell'Egitto il Sinai. In questo momento il Sinai non è di nessuno, è di bande che continuano. C'è una forza speciale di polizia dell'esercito egiziano che, se succedesse qualcosa ai porti turistici, interviene. E nello stesso momento in cui interviene, interviene anche la nave militare che c'è lì vicino, più vicina. Questa è l'evacuazione prevista dai protocolli internazionali. Quindi, se uno va a Sharm, dovrebbe sapere che non va proprio in un territorio, come sento dire, vai tranquillo. Alla fine lì è tranquillo per il momento. Bisogna vedere che cosa potrà succedere. Speriamo non succeda nulla, perché in Tunisia l'anno scorso quei poveretti che erano in spiaggia si sono ritrovati sotto i colpi del Kalashnikov. Quindi e anche la Tunisia la davamo per sicura. Ci sono state due stragi in giro di 5 mesi, poi vabbè, quella nota di Parigi, che sono stragi, puoi avere le forze speciali migliori, puoi avere tutto, ora che intervieni la frase c'è. Ed è proprio qua, secondo me, che la nostra parabola di Europa, e qua devo dar ragione a questo autore, sta andando in crisi, perché noi è venuta la sindrome dell'intervengo o non intervengo, nel metto back, ma neanche intervenire militarmente, neanche esprimo un'opinione, perché insomma io avevo aiutato i Bantu a sterminare la Tarare, non posso intervenire in Niger, non posso fare così, non posso fare colà. E quindi ci siamo ritrovati, io penso che siamo dentro un labirinto. Quindi le soluzioni sono: o prima o poi ci sarà una leadership forte europea che prenderà in mano la situazione, quindi che gestirà a livello unitario tutto il discorso della nostra unione monetaria, economica, o se no noi continueremo a dire, avere la bandierina colorata di blu, però ognuno andrà a fare i fatti propri, cosa che gli europei sono maestri, perché se voi andatevi a leggere i trattati che sono stati fatti prima della prima guerra mondiale, era impossibile che scoppiasse una guerra, perché c'era la triplice alleanza, l'intesa. Se tu sei aggredito io posso intervenire, ma devi essere aggredito in questo modo. Poi cosa è successo? È venuto fuori un macello, appunto, per questi continui scambi, contratti, eccetera. Lì a quel tempo, e siccome ragionavamo ancora da un punto di vista coloniale, finita la prima guerra mondiale, ci siamo divisi le colonie male, perché poi il Medio Oriente, tutto il discorso del Medio Orientale è partito dai famosi mandati, perché avete presente, nella prima guerra mondiale noi siamo occidentali, ma c'è qualcuno che è diventato più occidentale di noi. Chi sono gli americani? Quindi gli statunitensi. Loro sono diventati più occidentali. Il presidente Wilson, finita la prima guerra mondiale, disse: ma no, c'è l'autodeterminazione dei popoli, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, le colonie, è sbagliatissimo avere le colonie, non va bene. Allora si sono inventati i mandati, cioè metto un po' di militari, gestisco il petrolio, perché guarda caso i mandati erano tutti su Iraq, Iran, Giordania, Siria, sempre quei posti lì. È da lì che è venuto fuori tutto il polverone. Poi vabbè, c'è stata la formazione dello Stato ebraico, sempre per colpa di noi europei, perché noi, finita la seconda guerra mondiale, c'era stato il disastro della Germania, e quindi gli europei hanno deciso di andare in uno Stato che c'era già, dicendo: no, qui adesso d'ora in poi ci stanno altri, perché c'erano 2000 anni fa. E abbiamo praticamente esportato anche lì il nostro modo di pensare, che da un punto di vista magari di ragionamenti pur parler sarebbe anche corretto, perché gli ebrei avevano subito una cosa inenarrabile, però quella cosa lì ha innescato tutto il conflitto medio orientale, che era tenuto nel pentolone in ebollizione da Stati Uniti e URSS, che riuscivano con l'equilibrio a gestire, e che poi è esploso negli anni 90, perché poi negli anni 90 c'è stata proprio l'escalation, e quindi da lì che è saltato fuori. E pensare che è spessissimo dal Medio Oriente e Balcani sono la croce delizia, perché l'Europa non è che ha un confine, e quindi è pazzesco come da un punto di vista storico all'epoca dei Romani, ad esempio, Cesare si è impantanato, io penso che non lo ricordi mai nessuno, ma si è impantanato in Iraq, perché avrebbe dovuto partire con le legioni e andare a conquistare quella che ancora i Romani chiamavano Persia. Il problema è che gli era sfuggito un passaggio, che c'erano i parti. Ci aveva provato Crasso, che era il terzo del triunvirato, no? Pompeo, Crasso, Cesare. C'è sempre quello che dici, ma Crasso chi era? Crasso in teoria era il più intelligente dei tre, era il più pieno di soldi dei tre, quindi il più ricco, ed era anche quello più raffinato. Cesare era in teoria quello più zuzzurellone, quello più ignorante, e quello che aveva meno chance, invece quello poi che... E poi c'era quello che in teoria era il più... Pompeo, quindi Pompeo se n'era stato a Roma, Cesare era in Gallia, Crasso è andato in Oriente, tanto anche lui ha ragionato, abbiamo conquistato mezza Europa, addirittura possiamo litigare tra romani, figurarsi se mi faccio mettere sotto dai parti. Invece ha fatto il classico sistema romano, è andato direttamente nel cuore della nazione, si è trovato in mezzo al Tigri e all'Eufrate, a Carre, in una bella giornata di sole, l'esercito romano ha preso una batosta che non prendeva da parecchio, e il Crasso è stato catturato, e quando i parti lo hanno visto bello pieno di anelli, lui cosa ha detto? Siccome sono barbari, però non sono pirati, perché anche a Cesare gli era successa una cosa analoga, era riuscito a comprarsi i pirati e poi gli ha fatto tagliare la testa, però Crasso pieno di anelli si sfila un anello e dice: vi do un anello, compro tutto, faccio... Invece i parti, che appunto a livello culturale non erano proprio gli ultimi arrivati, cosa fecero? Dacci pure tutto il tuo oro, che venne fuso e poi gli venne versato in bocca. Così, giusto per fargli capire che anche loro avevano il senso dell'umorismo nero. E poi la testa fu tagliata e fu rimandata al governatore dell'odierna Giordania, insomma, cioè il governatore romano, gli arrivò in un bel vassoio, gli arrivò la testa e un tamburello fatto con la sua pelle. Sapete quei tamburelli che fanno ti ti ti ti? Ecco, quindi quello era stato l'esordio di Crasso, e anche l'esordio finito malissimo. Quindi anche lì Cesare cosa fece? Preparò la spedizione, però non ci andò mai, vabbè che fu anche ucciso nel frattempo, però avrebbe dovuto anche lui, per far vedere al popolo romano lo scontro con l'Oriente c'era, coi parti in quel caso. Poi Augusto, un filino più furbo, si costruì lo scontro con Marcantonio. Tanto Marcantonio era uno spaccone, gli piacevano le donne, voleva fare un regno Egitto romano, lui ormai era convinto di essere metà romano, metà discendente di Ra, era andato completamente fuori di testa. Quindi ai romani dissero: beh, è fuori, non ci dà il grano, non vuole pagare le tasse, l'Egitto militarmente valeva quello che valeva. Augusto conquistò l'Egitto, l'unica cosa proprio che gli stette qua, Cleopatra si suicidò, perché lui l'avrebbe portata volentieri a Roma a far vedere in catene, però quella almeno lei ebbe l'intelligenza di suicidarsi, perché da regina greca, però anche lì, vedete, noi abbiamo un'idea dell'Egitto e parliamo di Cleopatra con valori orientali, e Cleopatra parlava in greco perché era la cugina, la lontana di Tolomeo. Quindi vedete come anche noi occidentali siamo riusciti anche nei secoli a crearci addirittura dei nemici, perché in realtà Cleopatra era in simbiosi con un romano, non è che fosse tanto distante la sua cultura, cioè gli piaceva anche a lei andare alle terme. Un egiziano antico, quindi i tempi dei famosi Ramses e compagni, non avevano nulla a che vedere con un qualsiasi civiltà che si sviluppò poi nel quello che noi chiamiamo Europa. Europa comunque non è un nome a caso, perché la signorina Europa, che ebbe tutta la sua, lei era nata in Fenicia e poi però fu rapita da Zeus, la Creta eccetera, i greci chiamavano Europa tutto il continente sopra Creta, quindi il nostro continente. I romani chiamavano Europa anche loro tutto il continente dove adesso c'è proprio l'Unione Europea, e le parti, l'Africa, venivano chiamate Africa. Vabbè, c'è la Mauritania, che sarebbe l'odierna Algeria, all'epoca dei Romani quella era la Mauritania, adesso la Mauritania esiste ancora e sono quegli stati che hanno i confini fatti con lo scalimetro e appunto residui di colonialismo. Addirittura il nome noi abbiamo cambiato, era su, l'abbiamo messo giù, cioè per far capire quanto noi, adesso lo farò vedere la prossima volta, ho un video interessantissimo di Montanelli che risale agli anni 60, quindi non 100 anni fa, dove gli viene chiesto se è vero che lui avesse avuto una moglie nella famosa impresa d'Africa. Lui con nonchalance disse sì, ero invidiato da tutti gli ufficiali italiani perché mi ero sposato questa dodicenne, però si usava così, fa ragazzi, l'Africa è quella. Cioè addirittura ancora negli anni 60 la sua idea, e nello studio ci fu gente che rise, quindi non, una frase del genere non aveva destato nessuno scalpore. È interessante perché in quella puntata, non so come si chiamasse lo show, lui si mise, fu un gran signore perché non polemizzò, ma c'era una ragazza etiope che gli ricordò che insomma questa poveraccia aveva 12 anni e che se in Europa tu ti fossi sposato con una dodicenne saresti stato considerato un pedofilo, un matto. E lui rispose sì, ma io la comprai, insomma, l'ho comprai, i miei ascari mi dissero vai dal tal Ras, comprati quella, le nostre donne te la gestiscono. Ha detto che ogni tanto spuntava questa con in testa tutta la frutta e la biancheria lavata. Quindi e adesso nel 36 io non giudico uno che è nato in Italia durante un regime, va in Etiopia e gli danno 100 ascari da comandare a un ragazzo di 21 anni, io sfido chiunque a non esaltarsi, perché tu vai a cavallo tutto il giorno, non vedi neanche la guerra, perché cavalchi dalla mattina alla sera, hai donne, gli ascari che ti fanno l'inchino e che ti preparano la via, non spari un colpo, è meglio del Luna Park, sei considerato un capo a 22 anni, cioè sei il padrone del mondo in quel momento là. Quindi il giudizio su Montanelli, lui stesso dice fu una grande sciocchezza la campagna d'Etiopia, fu una sciocchezza dove anche lì, e lì parlo del colonialismo, l'identità europea, fu per identità europea che andammo in Etiopia, perché non è stato Mussolini che ha avuto la grande idea, l'idea gliel'aveva data due persone, Lord Perth e Lowell, il primo ministro, il ministro degli esteri francese, che in un colloquio informale gli dissero ci sarebbe l'Etiopia, cioè queste furono le parole, ci sarebbe l'Etiopia, poi se noi facciamo finta di non farti l'embargo eccetera. Poi Mussolini sbagliò tutto in realtà, perché andò contro alla Società delle Nazioni e avrebbe potuto tranquillamente, infatti Lord Perth dirà a Mussolini, anzi più che a Mussolini dirà al nostro Stato Maggiore, non ci siamo, non avete ancora imparato proprio l'essenza del colonialismo, voi vi dovevate proprio inventare di sana pianta degli episodi migliori, vi siete inventati una semplice strage di 3 militari italiani e con quella strage lì avete voluto andare a conquistarvi l'Etiopia, ma no, non ci sapete proprio fare, non ci sapete fare. E addirittura gli inglesi, quando andarono a visitare la Libia, mandarono dei rapporti lunghi 1 chilometro agli stati maggiori, perché noi eravamo il 38, abbiamo firmato il Gentleman Agreement, Gentleman, no? Quindi con Ciano e Lord Perth. Nello stesso periodo però eravamo vicini alla Germania, però i consiglieri militari inglesi venivano in Libia. Perché? Perché loro erano in Egitto, a Creta, in Grecia. E con lo stupore che si ha per queste cose nell'ambiente militare, scrissero dei papiri dicendo ragazzi, gli italiani hanno costruito le strade, non hanno fatto fortezze, c'è Tobruk che era una fortezza abbastanza gestita bene, Tripoli che Balbo praticamente, lui venne mandato dopo la trasvolata con le vie dedicate negli Stati Uniti, la prossima volta farò vedere una foto di Balbo che si fece mettere, cioè gli misero a Chicago i Sioux, diventò capo Sioux, ok? Quindi c'è ancora la Balbo Avenue a Chicago, se voi andate a Chicago trovate tanto di targa dei traslatori italiani, lì nessuno si va a tirare giù la targa, è andata così. Balbo però lì si è rovinato la carriera, nel senso che Mussolini gli ha detto guarda sei un po' troppo importante, vai in Libia, gestisciti la Libia. Chiaramente Balbo non era... avete presente io lo associo un po' a quei capitani di ventura medievali, una specie di armata, non Brancaleone, perché comunque a livello di tecnologia non era poi così male, perché gli apparecchi che fecero quelle cose erano tutti italiani dall'ultimo bullone, e voi sapete, nelle imprese siamo fenomenali, poi però non c'erano i fondi per fare l'aeroreazione, però c'erano, la flotta andava benissimo, con la porta aerei no, perché siamo già una porta aerei, quindi c'era comunque Mussolini che teneva il becco, però la nostra colonia in quel caso là divenne addirittura Balbo, il campionato di calcio fu una delle prime cose che introdusse, i littoriali culturali, e si batté litigando con Mussolini per dare la cittadinanza agli arabi, perché anche qua, l'anno scorso l'avevo fatto vedere una mia conferenza, si apre un capitolo che adesso penso che qualche presunto antifascista, perché secondo me non è in realtà antifascista, lo dice perché, ma non sa in realtà cosa è stato nel fascismo, nell'antifascismo, non sa niente. E se leggesse, gli viene adesso per antonomasia, gli antifascisti sono legati al mondo arabo, i fascisti, in realtà invece è il contrario, perché Mussolini divenne il protettore dell'Islam, ci sono miliardi di fotografie con la spada dell'Islam, le popolazioni beduine addirittura avevano la fotografia del duce, e periodo in cui lui andava di moda, perché Mussolini andò di moda dal 31 fino al 36, anche Gandhi, è stato a Villa Torlonia quasi 15 giorni, disse, ce l'avessimo avuto in India, con gli inglesi, uno così, quindi abbiamo anche lì, secondo me, per spiegare un fenomeno come il fascismo, che appunto ha dentro molto dell'identità europea, però da un punto di vista italiano / latino, quindi diverso dal modello inglese, anche lì per spiegare cos'è stato il fascismo, se continuiamo a condannare senza spiegare, fra 15 anni avremo di nuovo il partito fascista. È semplicissimo, cioè se uno non spiega cos'è stato il fascismo, ma non quelle, scusatemi, stupidaggini che si leggono ci sono ancora degli storici inglesi che vanno avanti a dire no, ma la flotta, no, in realtà loro hanno vinto un sacco di battaglie perché avevano decodificato con Turing il sistema di criptazione, non quello italiano, perché gli italiani lì erano stati furbi, ma quello tedesco, e quindi i tedeschi cosa facevano? Spostavano le loro navi, cioè spostavano le nostre navi col loro codice, in pratica, e quindi ci fregavano anche a noi gli inglesi, però, perché noi non dicevamo niente, il nostro codice era a posto, non fu decriptato dagli inglesi, invece quello tedesco sì, e noi per tanti anni ci siamo buttati addosso le sconfitte anche dei tedeschi. È colpa nostra, noi eravamo scalcinati. No, mica tanto, perché nel Mediterraneo la Royal Navy non vinse contro la Regia Marina, ci fu un sostanziale pareggio, perché è vero, Matapan, Taranto, però Alessandria d'Egitto, Gibilterra, insomma, noi con 6 uomini, una corazzata, un sommergibile ci è bastato, solo che non avevamo i ricognitori che arrivavano non hanno fatto le foto bene, sembra poi Canning, avevamo anche noi avevamo il problema che i nostri militari di truppa erano in gamba, il problema era i generali, e Graziani stava in una tomba romana a 30 metri sottoterra, e la prima linea chi l'ha vista è bravo, e quindi e quello era il nostro problema, e purtroppo quei problemi lì in guerra si pagano. Balbo fu ucciso o per errore dalla mitragliera di una nostra nave mentre tornava da una ricognizione, lì perdemmo sicuramente una persona più coraggiosa di Graziani aveva subito un attentato ad Addis Abeba ed era spaventatissimo, appena vedeva coloni andava fuori di testa, quindi ordinava rappresaglie, fucilazioni, uccisioni, massacri. Quindi anche questo, e questo tema lo tratterò la prossima volta, se no finiamo domani mattina, e questo lo farò nella prossima conferenza, cioè il punto di vista proprio novecentesco di cosa vuol dire Europa. Cioè siamo arrivati a pensare all'Europa dal tempo dei Romani, e adesso dal Novecento fino al nuovo secolo, che cosa ci è rimasto di quello e che cosa abbiamo fatto. Ecco, nella prossima conferenza mi dedicherò proprio all'attualità. Perché non riusciamo a perché intervengono gli americani e non interveniamo noi nei teatri dove noi magari potremmo dire la nostra senza per forza far guerre? Perché non aiutiamo gli stati, come magari potevamo fare un tempo, a risollevarsi senza vendergli le armi, ma facendo altro, con progetti di sviluppo, con progetti internazionali, con... No? Non, sembra quasi che non si voglia fare. Penso sia spesso anche per i rapporti che esistono, rapporti commerciali, magari gli americani con certi paesi non hanno proprio rapporti commerciali e economici, allora possono entrare a gamba tesa. Gli europei che invece ci rimettono un po' qualcosa, se qua perché fanno lo sgarbo agli uni o fanno lo sgarbo agli altri, devono stare molto più attenti e essere molto più diplomatici qua. No, ma infatti è uno dei motivi. Il problema però è che noi abbiamo gli stati africani sulla sponda opposta che ci farebbero tutti l'occhiolino, perché preferirebbero avere noi come interlocutori che gli americani. Che in Libano preferiscono avere a che fare con gli italiani che con gli americani, o non so, piuttosto che con i francesi anche in Siria preferisce avere a che fare, o con gli inglesi preferisce avere a che fare con altri stati. Però se tu vai come Unione Europea, chiaramente sei più ben visto e riesci a rimettere a posto dei pezzi. Non dico di stare lì a insegnargli nulla, proprio una questione di rimettere a posto dei pezzi, perché adesso Putin tanti inneggiano, però in realtà lui ha degli interessi enormi in Siria, avevano un porto microscopico e adesso la Siria diventerà un avamposto russo. Ricordiamo che comunque lui è un dittatore, non è una persona democraticamente eletta, eccetera eccetera, quindi anche lì abbiamo lasciato in mano probabilmente una ricostruzione di un paese, perché io credo che con l'ISIS non ci voglia molto, abbiamo lasciato in mano a, no, un possibile avversario, e soprattutto abbiamo lasciato che uno stato abbastanza grosso come la Siria vada incontro a un futuro molto incerto. Quindi lì potevamo fare qualcosa in più, come potremmo fare qualcosa in più nel nostro est europeo, perché ci sono i paesi, Repubblica Ceca, Slovacchia, e la Polonia è un'eccezione, però delle volte sono quei paesi un po' di argilla, nel senso che hanno il PIL che va, questo che va, quello, però poi di colpo trac, crolla tutto. E la Grecia stessa è stata portata addirittura come esempio, cioè nel 2003 dicevano che noi come Italia avremmo dovuto imitare i greci, lo dicevano gli economisti di mezza Europa, dimenticandosi però che in Grecia non producono neanche un bullone, quindi anche come la Spagna che in un certo momento aveva una crescita incredibile e adesso di nuovo no. La Spagna purtroppo è ancora più grave, perché la Spagna è uno stato più grosso. È uno Stato che si è autoconvinto, ormai è autoconvinto di poter andare a dire la propria, e non può farlo perché ha il debito, l'ha venduto, l'oro non ne ha, non funziona, cioè la Spagna è veramente ridotta male e rimane in piedi per gli aiuti europei in pratica, solo che i governanti spagnoli non hanno ben chiara questa situazione. E quindi anche a livello di, cioè addirittura mettono i veti sugli immigrati, mettono i veti su questo e su quell'altro, dovrebbero essere gli ultimi a poter dare una, cioè alla fine l'asse è sempre quello, Germania, Inghilterra, Francia, Italia, l'asse europeo, sono tutti e quattro nei primi 10 paesi economicamente avanzati del mondo, quindi a livello militare Inghilterra, Francia, Italia e Germania sono la NATO, quindi gli altri stati dovrebbero in quel caso lì cercare di fare squadra, non di mettersi a fare gli splendidi in certe occasioni per tornaconto personale, che poi in realtà non arriverà mai, perché gli spagnoli adesso c'è anche nell'area medio orientale o non hanno un peso specifico importante, neanche noi in questo momento abbiamo perso tutto quello che avevamo guadagnato negli anni 70, tutto buttato, tutto via, però abbiamo delle presenze che sono diverse. Certo, dobbiamo cercare di non farci fagocitare, e sarebbe meglio andare come Unione Europea, cioè mettersi sulla divisa un bollino di Unione Europea, intervenire come Unione Europea a livello, secondo me, mentale, non come... Quando parlo di intervento, ripeto, non parlo di intervento militare, parlo di intervento anche di mediazione. In Libia, Leon è un anno che sta facendo... il governo di Tobruk, a 1000 chilometri neanche da noi, quando lì ci voleva un'azione proprio a livello politico per post ricostruzione. È come se l'Italia l'avessero lasciata in balia delle bande dopo la seconda guerra mondiale. Sarebbe successo un caos. Invece gli americani cosa hanno fatto? Hanno ritirato tutte le armi ai partigiani, prima cosa che hanno fatto. Seconda cosa, hanno detto: mettetevi d'accordo a livello politico perché non andate da nessuna parte. Non cioè lo Stato è rimasto quello che era prima, hanno cambiato qualcuno, hanno amnistiato gli atti e abbiamo fatto il boom economico. Perché su riforme pensate negli anni 30, sull'istituzione pensata negli anni 30, purtroppo per fortuna è andata così. Se avessimo smantellato tutto, o andavamo completamente dall'altra parte, quindi andavamo a un modello sovietico, o se no eravamo spacciati. Noi siamo rimasti nel blocco occidentale col più grande partito comunista d'Europa, perché il PC era il più grande d'Europa, ma che non aveva un peso, aveva un peso specifico in realtà, ma non lo aveva a livello formale. Sotto banco lo aveva, perché comunque certi accordi sono stati fatti anche col PC, dovevi farli col PC, perché comunque avevano una parte importantissima della nostra popolazione che caldeggiava. Quindi anche lì andrebbero, ecco, secondo me se si facessero questi esempi, tanti capirebbero. Invece noi siamo ancora qui alla guerra anti, non anti, cioè dopo 70 anni, non abbiamo ancora sul 25 aprile polemiche, cioè siamo un po' provinciali se continuiamo a fare questo tipo di politica, a mio parere. Dovremmo andare oltre e ragionare come Unione Europea, come Stati Uniti d'Europa, poi rimanendo con le proprie identità, perché un greco non sarà mai un danese, secondo me, però è un europeo. Però si sente europeo, cioè se tu giri per l'Europa questa cosa la vedi, e anche nei ragazzi giovani. Su quello aveva ragione Enrico Letta, secondo me, quando ha detto: siamo la generazione Erasmus, quella che ha fatto l'università, quella dei sogni, quella del 92, dove sui libri di geografia trovavi, no, il futuro. È vero, quella generazione la vedi, cioè sono persone che nell'Europa credono, però su quella base lì bisognerebbe lavorare a livello culturale, non andando a vendere le armi come Inghilterra all'Egitto e nel contempo però essere contro o mettere il veto. Cioè noi facciamo questo gioco qui, o anche la Germania che fino all'altro ieri era contro a tutto, adesso no, ho aperto, no, ma apro di meno. Cioè lì bisognerebbe essere solidali tra europei, cioè a Lampedusa ci dovrebbero essere più forze europee a dare una mano, cioè proprio visivamente, perché anche psicologicamente sarebbe diverso, cioè. Noi italiani abbiamo gli aerei nei cieli, pattugliamo tutto il nord Europa perché siamo della NATO, e dovrebbe essere quello lo spirito. Però cioè non è che io sto pattugliando una roba che non è mia, o non sto facendo un servizio a uno che non è mio amico, cioè dovrebbe essere tutta Europa da quel punto di vista lì, e punto. Qui però ancora si parla di confini tra nord e sud Tirolo, se poi vogliamo dirla tutta, cioè fa ridere, in un contesto geopolitico, quando senti certe polemiche dici vabbè, o la Catalogna o la Scozia, cioè in questo contesto non ha senso, a mio parere, cioè, volete fare l'Europa delle mille patrie, si può anche fare, però deve essere Europa che poi va a livello internazionale, perché chi è che... Scusi, ma secondo lei se uno qua fa uno Stato per i fatti propri a livello internazionale rimani come Liechtenstein, ma non hai nemmeno le banche, quindi non lo so, cioè rimani in questo limbo, non funziona. E allora secondo me abbiamo superato anche quel problema lì, secondo me abbiamo superato quei problemi lì, come se siamo europei. Certo che se mi alzo la mattina, addirittura non sono neanche spagnolo, sono catalano. Non sono neanche spagnolo, sono catalano. Poi vado a Brescia, lì il discorso della Polente, adesso quei discorsi Polente, Ampolle sono un po' tramontate, ma c'erano anche quei discorsi, siamo i Celti, robe proprio dell'altro mondo, coi Veneti che chiedevano la cittadinanza ai Romani, metteteci dentro nella Repubblica Romana così non ci scassano quelli del nord. E abbiamo Alberto di Giussano si è battuto contro il contrario, l'inno che era di Verdi, cioè abbiamo fatto un disastro culturale solamente in Italia. In Europa, in Spagna, io ho letto delle cose senza senso, perché gli spagnoli già così fanno fatica, divisi non vanno da nessuna parte. Io rimango dell'avviso che come Europa unita, poi ripeto, se uno si sente basco va benissimo, però deve sentirsi europeo poi nel discorso macro, perché sennò non si va da nessuna parte. se no veramente facciamo la fine di essere se no possiamo anche scegliere di essere fagocitati, e questo sta a noi se vogliamo essere fagocitati. Io ho concluso, ho fatto questo excursus moderno perché andava fatto, secondo me. C'è qualche domanda? Se no ci vediamo la prossima settimana, torniamo qui al cristallo alle ore 18, sempre lunedì. Grazie.